Abbi positivo. Se l'hai prodotto, se l'hai meglio. CS 2011. Rap francese, rap giapponese, io sta roba la faccio sì una volta al mese. Sono nuovo in questo campo, ma con le rime non inciampo e vado veloce come un lampo. Ogni rima mi rimane sulla pelle come un tatuaggio permanente. Più lo faccio, più divento saggio. Non ho mai fatto una cover, ma quando mi metto in gioco non faccio mai game over. Indosso una maglietta, né tanto larga né tanto stretta, ma ti colpisco ugualmente come una saetta. E mi domando cosa voglio diventare: carriera militare o un viaggio senza ritornare? Magari mi metto a fare affari, ma lo giuro non diventerò mai come Giorgio Armani. E se è vero che siamo tutti esseri umani, io alzo le mani e vediamo cosa succede. Anche se tengo gli occhi aperti niente si vede. A questo punto mi rassegno e rimango per ore sveglio a riflettere su cosa è meglio. E quando non ci sarò dall'alto ti manderò un segno. Sono Furad, abbi positivo. Ti chiamo e poi ti sfido. Ve lo dimostro che sono tosto, sono un mostro. Vi assicuro che vado oltre ogni mio valore di costo. Non giri in Porsche, non giri in Ford. Ma quando ascolto la vostra musica mi viene da tagliarmi le orecchie a mo' di Van Gogh. Abbi positivo, corro più non posso. Non mi fermo neanche se il semaforo è rosso. La mia canzone ti entra nella testa. Fratello, tu sei in prima che io sono già in sesta. Abbi positivo e Streetlight Production. Questa è la mia rima, la firmo e ve la lascio. Abbi positivo sulla scena, mille progetti per la testa, in modo che la nostra rima ti abbassi la cresta. Non ho abbastanza nome da sputtanare qualcuno, però se canto io distruggo il tuo futuro. Base potente, from TML, questa fra ti trema fin sotto la pelle. Se fossi ricco non farei il cagone, forse aiuterei le persone, sicuro scriverei ogni giorno una canzone. Qui abbi positivo, ricorda il nostro nome. Il talento cresce, la voglia nasce, fra non darla vinta a chi non ti dà pace. Se vieni dalla strada sai cos'è il rancore, mentre annevi nel tuo sudore, che i soldi fa il figo credendosi migliore. Gli spaccheresti la faccia fino a che non muore. Mi viene da chiedermi, Dio dov'è il tuo amore? Aiuti i ricchi, ma i poveri manco se cadesse Giove. Soldi fan soldi, merda fa merda. Stasera mi faccio soldi vendendo erba. Tira su di coca finché il tuo cuore non scoppia. Caro mio, questa è la vera vita loca. Sensazione negativa nel posto sbagliato, sensazione positiva per quello che ho sognato. Però fratello, adesso qui mi fermo, a stare a vista come un dio, torna al mio lavoro eterno. Abbi positivo, corro più non posso. Non mi fermo neanche se il semaforo è rosso. La mia canzone ti entra nella testa. Fratello, tu sei in prima che io sono già in sesta. Abbi positivo e Streetlight Production. Questa è la mia rima, la firmo e ve la lascio.